Allora, les amis, benvenuti alla nona puntata di Extra Extra, che forse sarebbe l'ottava, ma è la nona tappa per cui decidiamo che andiamo appresso al numero delle tappe. Domani c'è finalmente il tanto atteso e amato giorno di riposo. E oggi pensavo di non farla questa puntata, ma le storie della vita mi hanno riportato davanti al televisore e quindi eccoci qui a commentare una tappa che è stata bellissima, su questo non ci sono dubbi. Speravo vincesse Jasper Stuyven. Ma fa niente, non siamo qui a commentare le mie speranze che come sempre sono state disilluse, siamo qui a parlare di strade bianche, più o meno, adesso poi capiamo il termine. Perché? Perché questa mattina mi sono svegliato appunto a casa mia, non pensavo di essere a casa, cioè quando mi sono svegliato ero sicuro di essere a casa, ma insomma non pensavo che avrei trascorso sul divano questa domenica e così ciò che ho fatto nella tarda mattinata è stato leggere l'Equipe, come faccio spesso durante il Tour de France, e leggevo questo pezzo di Laurent Campistron, che è andato a farsi un giro sui tratti sterrati della frazione di oggi e a parlare con alcuni personaggi che lì abitano tutti i giorni, nello specifico con la famiglia Richardot, Jean-Paul e suo figlio, di cui non ricordo il nome ma poi lo ritroverò, Eugène si chiama il figlio, che hanno queste vigne, un'impresa vinicola a Loches-sur-Ours e così, passano tutti i giorni da questi sentieri bianchi, da queste strade bianche, poi capiremo come chiamarle. Le hanno le viti, le mantengono, lì vanno in giro con le biciclette, li portano in giro in bici elettrica ai turisti per poi vendergli lo champagne, ma non sto qui a raccontarvi la vita sempre splendida e interessante della famiglia Richardot, ma mi interessava un passaggio di questo servizio, che è quando descrive questi tratti, queste strade, e li definisce quasi naturali, no? Dice che il signor Richardot dice: abbiamo tutto ciò che serve per realizzarli, non ci serve che togliere 15-20 centimetri di terra, poi sotto c'è della roccia, del tufo, dei ciottoli, del calcare, quindi tutto viene spogliato, frantumato, e si creano queste strade che sono anche resistenti, non ci si impantana mai, anche quando ci sono 30 mm d'acqua la strada non si muove. Questa cosa mi ha fatto un po' riflettere, stavo aspettando l'inizio della tappa, tra l'altro so che ha piovuto ieri anche da quelle parti, per cui mi aspettavo anche di vedere cosa sarebbe successo. Fortunatamente non è successo niente di grave, ma mi ha portato un po' a interrogarmi su questa nuova figura del ciclismo, che è la strada bianca. E dunque, così, ho fatto una piccola ricerca e oggi vi condivido con voi quello che sono andato a trovare sulle strade bianche, insomma, perché poi che cos'è una strada bianca? In realtà non è che esista una definizione esatta, di fatto è semplicemente un tratturo di campagna, una carreccia, una mulattiera, chiamatela come volete. A me capita spesso, quando sono in campagna, dove speravo di essere oggi, ma ci sarò da domani, di camminare tra le vigne e le strade su cui passo sono esattamente quelle, no? Sono le strade bianche, ci sarete passati tutti quanti. Spesso sono marroni, ma questo è un altro discorso. E naturalmente sono tra le prime strade del mondo, perché insomma da lì derivano le strade, no? Inizialmente erano erba, terra, quello che fosse, pian piano diventano strade. E poi arrivarono i romani. I romani arrivarono, fecero le pavimentazioni, abbiamo visto tutte le vie romane, tutto quello che vogliamo, e hanno segnato veramente l'evoluzione delle strade, almeno in Occidente, ovviamente, perché di questo si sta parlando. Tanto che si è dovuto aspettare fino al 1700 per riscoprire un po' un approccio tecnologico agli sterrati, alle strade bianche, e a studiare il modo per realizzarle. E il padrino di questa tecnologia è un signore scozzese che si chiamava Mac Adam. E infatti, se andate in giro per il mondo, spesso gli sterrati vengono chiamati macadam. Non so perché sia diventato in francese, però sempre di lui si tratta e fu lui che riprese le vecchie tecnologie e creò queste strade che sono fatte in diversi strati. Sotto c'è o un basamento roccioso, comunque grandi pietre, poi piccole pietre a riempire i vuoti e poi piccole pietre ancora più piccole, tipo del ghiaino, come lo chiamano oggi gli appassionati di ciclismo fuori strada, gravel, che in italiano è ghiaia. E che viene compattato con rulli compressori, con quello che inizialmente non c'era nessun legante, oggi usano dei leganti. Questa è un po' la storia di queste strade. Arrivano al ciclismo, lo sappiamo benissimo, per tante vie ci sono sempre state, anzi il ciclismo eroico, e non uso un termine a caso, si correva su questo tipo di strade, no? Però nello specifico poi arriva una figura che è la strada bianca, che non è la mulattiera, non è la carrareccia, è proprio quella roba lì. E quella roba lì arriva chiaramente dall'Eroica, arriva chiaramente dalla Toscana, arriva dalle Crete Senesi. Crete Senesi che sono delle delle strade argillose, da terreni fortemente argillosi, infatti per quello sono così bianche, forse grigine potremmo definirle, però insomma sono di fatto bianche, e si tratta di argilla, salgemma, gesso, insomma quello che è, e sono dei sedimenti marini. Perché vi parlo di questa cosa? Perché mi interessa arrivare a quelle che erano le strade di oggi in Francia. In Francia non si parla di strade bianche, si parla di cailloux blanc, ovvero di ciottoli bianchi, che se mi permettete è un termine già molto più bello di gravel, per cui potremmo parlare di ciclismo cailloux anziché di ciclismo gravel. Nello specifico si tratta di frammenti rocciosi che risalgono al Kimmeridgiano, che è l'ultima epoca del Giurassico, per cui tra 155 e 150 milioni di anni fa. Arrivo qui per arrivare a quello che è una delle mie fonti preferite quando si parla di Tour de France, ovvero l'account Twitter e il relativo sito, che il sito non mi ricordo come si chiama, il Twitter è @geotdf, quindi la geologia del Tour de France, è una cosa creata con la collaborazione dell'Università di Utrecht, che oggi, come spesso fa, ha ricostruito la storia geologica di questa zona. Oggi è particolarmente interessante, però, secondo me, perché ci porta veramente alla materia della strada, e questo è il bello del ciclismo, no? Noi lo diciamo sempre, come poi si possa tirare indietro la storia anche lontanissimo. Noi qui arriviamo alla disgregazione della Pangea, ai territori dell'attuale Francia che si trovano sul fondo del mare e quindi alla formazione di rocce sedimentarie. Nel caso delle strade che abbiamo visto oggi, rocce per il 75% calcaree e quindi molto più, potremmo definirle, giovani rispetto alle crete senesi, no? Quindi sono più dure, sono più porose, sono più resistenti, ma anche si spaccano più facilmente in pezzi e quindi è vero che da quelle, perché poi io non sono lì, ma da quelle parti così si fanno le strade, ma effettivamente se le confrontate con le strade bianche che vediamo all'Eroica e nelle sue successive evoluzioni, si tratta di sassi molto più appuntiti. Oggi ci è andata bene che tutto sommato c'era un discreto buon tempo, c'era un gran polverone, meno che all'Eroica sicuramente, e non abbiamo visto gravi cadute se non le poche cadute le abbiamo viste per altre ragioni, non abbiamo visto gravi forature, e non ho capito bene cosa è successo a Vingo per cui è arrivato con la bici di Tratnik, forse in quel caso era una foratura, ma insomma non ha avuto grandi conseguenze sull'esito della tappa, ma ha avuto la conseguenza che io mi sono trovato a studiare un attimo quello che sono queste strade e sono contento di averlo condiviso con voi, non so se siete contenti anche voi di averlo ascoltato. Fatemi un secondo tornare all'equipe da dove è partita tutta questa riflessione, perché ne faccio un'altra piccolissima, ed è il fatto che al centro del numero odierno dell'equipe, nella rubrica Tutti gli sport, non mi ricordo in francese com'era il titolo esatto, c'erano due pagine dedicate alle lezioni, perché oggi ci sono le lezioni in Francia e non erano due pagine dedicate alle lezioni a caso. Erano due pagine dedicate a sportivi che riguardavano le lezioni. Nello specifico erano una lunga intervista a Vikash Dorazo, che è un ex calciatore internazionale e già stato in passato candidato con la France Insoumise, e a Aleksandr Nikolić, che non sapevo chi fosse, ma è colui che si occupa delle questioni sportive per il raggruppamento nazionale di Le Pen, quello che in francese è il Rassemblement National. E se volete saperlo, in giapponese me lo sono segnato, è Zenkoku Shukai. Le lezioni sono in Francia e questa è una rubrica che si occupa di Giro di Francia, di Tour de France e si rivolge ad ascoltatori e ascoltatrici italiane, per cui non vi dico quello che contenevano queste due pagine, però ci tengo a sottolineare che ci fossero perché come occuparsi di sport può dare il là all'occuparsi di geologia, occuparsi di sport dovrebbe obbligarci a occuparci anche del mondo che ci circonda, a non andare avanti coi paraocchi solo su quello su cui dobbiamo parlare. E quindi questa cosa dei paraocchi la fanno in tanti, però ci sono anche tanti che non chiudono la porta sul mondo. Non mi stupisce che lo faccia così bene l'equipe. Bravi loro, non voglio pensare a quello che succede in casi analoghi con la stampa sportiva italiana. E permettetemi una piccolissima polemica. Sono andato fin troppo lungo anche oggi, concludo con un'altra cosa, una curiosità che ho trovato cercando la strada bianca su internet. E quindi su Wikipedia ho scoperto che Strada Bianca è l'unico album datato 1974 dei Data, e cito, si trattava di un supergruppo formato da tre session man dell'etichetta numero 1, ovvero Massimo Luca, Damiano Dattoli o Dattoli, non so come si pronunci, e il futuro cantautore Umberto Tozzi, e quindi vi lascio con un Tratnik. E quindi sono andato a recuperarlo e vi lascio con un estratto da questo brano, Strada Bianca, e ci risentiamo una volta che tutti ci saremo riposati per bene. Au revoir.